lirica di quello che è il movimento da colpire qui in Italia. È sufficiente avere un fumus, è sufficiente cioè avere un'alea, una possibilità di indicare un'alternativa dentro questa società, perché la prima Corte di Cassazione continua a suggellare le sentenze di primo e secondo grado. Eppure se ci trovassimo di fronte alla legge, parlo della legge Borghese, parlo del codice Rocco, parlo della devastazione e saccheggio che proviene da quel codice Zanardelli recuperato da Rocco e recuperato dalla Repubblica Italiana, questa Corte, analizzando i fatti e in diritto, i fatti sono: è possibile mai che si applica la devastazione e saccheggio laddove ovviamente ci sia state forme limitanti all'interno della città di Genova? E premessa di tutto quello che hanno potuto dire fino a questo momento gli altri che sono intervenuti prima, il contesto, che cosa è successo a Genova, quanto è stata militarizzata, quanto è stata espropriata, che tipo di apparato militare, comprensivo dell'esercito, comprensivo dei reparti del Tuscania, comprensivo dei reparti che venivano dalla Somalia, che erano andati già in giro a fare guerre da tutte le parti e che quindi hanno posto una sollevazione di natura fuscista all'interno di quelle giornate. Allora, questo è il contesto. Dentro questo contesto, che dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare che sono stati effranti 15 bancomat, ma a Genova i bancomat sono 2200. Che dobbiamo considerare? Che sono state spaccate le vetrine a 5 banche, ma ci sono 250 banche a Genova. Che dobbiamo considerare? Che sono andati uno a fuoco e l'altro danneggiati, 3 blindati? Ce n'erano 450 di blindati a Genova. Che dobbiamo considerare? E io ho tralasciato la tortura a Bolzaneto, Diaz, eccetera, eccetera. Ma come si potrà mai applicare il reato di devastazione e saccheggio se non in memoria di quelle regole appunto fasciste per cui io sono il nemico, io 300.000 che sono lì, io sono stato a Genova, sono il nemico. Perché sono il nemico? Perché mi permetto di dire e di protestare nei confronti di un governo che fa macelleria sociale. Andate a fanculo tutti quanti, andate, va. E dentro questo percorso, se questo è il fatto, in diritto, come si fa a selezionare 10 compagni e compagne di fronte alla scelta che i primi erano 20 in primo grado, a tutti e 20 è stata applicata la devastazione e il saccheggio, poi in secondo grado a 10 è stata tolta la devastazione e il saccheggio e condonati i reati specifici per il condono del 2007, non ho capito, ma Genova era unitaria? E perché a questi gli rimane devastazione e saccheggio e agli altri gli è stata tolta? Perché nel momento in cui c'è stato tutto il teatro intorno a Piazza Limonda, dove c'è stato l'atto più efferrato, l'assassinio di Carlo Giuliani, è meno forte di qualche banco, ma di una vetrina o di due bottiglioni d'acqua? Ma andare a fanculo un'altra volta, va, dal suo punto di vista. E allora, se ci fossimo trovati davanti alla legge, la Cassazione oggi dovrebbe fare un elemento significativo e normalissimo, cosa che è nelle sue potestà. Direte, la sentenza di secondo grado è caricata di suscitazioni, di appellativi, di sostantivi, per cui il processo va cassato e va rinviato alla Corte d'Appello e derubricato il reato di devastazione e saccheggio. Ma tutto questo sarà vero? Io credo che non sarà vero. L'ho detto all'inizio, perché la prima Corte di Cassazione è un plotone di esecuzione. Ma attenzione, attenzione signori della Corte, attenzione signori della legge, perché non finisce qui, non solo finisce qui perché il movimento non solo è presente, pensavate di averlo ucciso, pensavate di averlo messo in una condizione di sussistenza, eppure come vedete dalla Val di Susa fino a Terzigno per arrivare al ponte di Messina è più vivo che mai, e queste forze dell'ordine tendono ancora a contrapporre il diritto, la giustezza, la verità al fronte che gli danno un comando e si scarica la loro violenza, la loro esecuzione nei confronti di chi c'ha ragione. Ma non finisce qui, perché almeno in diritto andremo davanti alla Corte di Strasburgo. La Corte di Strasburgo non c'ha come ipotesi la vendetta. Ovviamente è un tribunale borghese pure quello, è un tribunale europeo, ma non c'è in Europa, in nessuna paese dell'Europa 27, il reato di devastazione e saccheggio. Non c'è in Europa una corte che può prevedere che di fronte a fatti importantissimi come sono venuti a Genova ci sono solo 10 giovanotti e giovanotte che all'epoca avevano in media 22 anni che possono pagare rispetto a quello che è avvenuto. E non mi dilungo rispetto a quello che hanno fatto le forze dell'ordine, di cui solamente un decimo, come dire, ha avuto una condanna così elementare. Oggi quindi siamo qui non solo per testimoniare la nostra solidarietà, il nostro sostegno, il nostro essere con loro, essere loro da questo punto di vista, essere loro laddove hanno deciso tra l'altro di consegnarsi a questa giustizia borghese, di andarsela a fare in carcere. E io dico pure a chi glielo fa fare di farsi in carcere di fronte a queste carceri, di fronte a questa vendetta. Abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere di non andare in carcere, abbiamo la necessità di dire questa giustizia, se continua a far così, non ci rappresenta, non è un indicatore se non di questa Italia maledetta che rompe da tutte le parti, che distrugge quel poco di coesione sociale che c'era, che elimina qualsiasi possibilità ai giovani di credere in questo paese, tant'è che se ne vanno tutti via dall'Italia, non perché in Europa si stia meglio, non perché presumo di ottenere maggiore giustizia in Olanda o in Germania o in Inghilterra, ma perché qui non se ne può proprio più, perché ci sono leggi speciali e ripetizioni, perché ancora vige le leggi eccezionali del 1978-79, perché questa Italia è la solita Italia, pagano sempre gli stessi e noi non ce la facciamo più. Guardate bene, la misura è quasi colma. È quasi colma perché se si arriva alle resignazioni, a eliminare il pubblico impiego, a eliminare le tredicesime, a eliminare pezzi del salario non facendo più i contratti, a far sì che bisogna andare a lavorare per 1 o 2 euro l'ora, ebbene aspettatevi la rivolta, aspettatevi la rivolta, e non basteranno questi palazzi a giudicarsi, perché saremo noi a giudicare voi. Allora, noi chiudiamo dall'appuntamento questa sera alle 20 a Piazza Perusa a Trastevere. Saremo lì, non accetteremo nessun'altra condizione. Scusate, non accetteremo nient'altro che la deduplicazione di questo processo. Se fossero 1 o 10 condannati, a noi cambia veramente molto, ma molto poco. Ciao, a stasera. Drink with some shakes in a club. I'm not sure I want. Ooh, life.